Io tengo intenzioni serie, anzi serissime. E allora non mi sono spiegato. Così non mare un cielo. Dite quella che vi pare, da questo. Che studio fa? Ma quando io avrò spuntato e avrò inciso il mio primo disco e finisco nella hip parade, farete anche voi la fila per venirmi a sentire. Franca Sinatra, faccia la fila, ma te ne voglio. Non c'è nada. Il mondo è di chi se lo piglia. Altre dobrore, punto, limone, l'uomo. E di chi se lo piglia. Ma sono spiegato, non c'è nada. Omu. Terroni, terroni, simpatici imbroglioni. Allora non mi sono spiegato, così non male un giro. Terroni, terroni, simpatici imbroglioni, ti incantano col cuore, ti vendono il dolore. Terroni, terroni, e noi sempre più buoni, chiudiamo sempre l'occhio e ti diamo l'amore. Non c'è nada, il mondo è di chi se lo piglia. Il mondo è di chi se lo piglia.